24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegatta e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura oggi la candidatura ufficiale del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi alla BCE e la conferma che la Germania è pronta ad appoggiarlo. Parleremo poi della scalata di Lactalis su Parmalat, su cui indaga la Guardia di Finanza, coinvolte banche e società italiane ed estere. Ma in primo piano anche lo sciopero generale in Grecia e lo sport con il Giro d'Italia che vede in maglia rosa l'olandese Wenning. L'Italia candiderà ufficialmente il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi per la guida della BCE e ieri Draghi ha incassato anche l'appoggio della Germania. Non è oggetto di questa conversazione. Comunque mi pare di aver già firmato un documento, già anche mandato. Solo poche parole a margine di un incontro con la stampa sul rapporto del Fondo Monetario Internazionale. Quasi con noncuranza il ministro dell'Economia Tremonti ha ufficializzato la candidatura di Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea. Una candidatura che, dopo quella della Francia, oggi ha incassato anche un altro importante appoggio, quello della Germania. Per la prima volta la cancelliera tedesca Merkel, in un'intervista, ha preso posizione in favore dell'attuale governatore di Banca Italia come successore del francese Trichet in scadenza il 31 ottobre. La sua è una personalità interessante ed esperta, molto vicina alla nostra idea della cultura della stabilità e di una solida economia, ha spiegato la Merkel. Parole che spianano la strada a Draghi nella sua corsa al vertice della BCE. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'appoggio della Germania alla candidatura di Draghi sentiamo il commento di Beda Romano del Sole 24 Ore. La frase della signora Merkel è abbastanza esplicita, non è definitiva come nello stile del cancelliere, ha detto che la Germania potrebbe sostenere Mario Draghi, però è in fin dei conti il sostegno che il governatore della Banca d'Italia stava aspettando a questo punto, perché la Germania era l'unico dei grandi paesi della zona euro che ancora non aveva esplicitamente sostenuto il governatore della Banca d'Italia nella corsa alla presidenza della Banca Centrale Europea. A questo punto bisognerà aspettare probabilmente giugno e il via libera definitivo del Consiglio Europeo. Nel frattempo la settimana prossima ci sarà una riunione dei ministri finanziari della zona euro e insomma questi due passaggi saranno quelli definitivi. Mario Draghi poi, se tutto va per il filo, per il verso giusto, prenderà la posizione di Jean-Claude Trichet a Francoforte, alla presidenza della Banca Centrale Europea, dal 1 novembre di quest'anno. Adesso l'inchiesta sulla scalata alla Parmalat da parte della francese Lactalis. La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di diverse banche e società italiane e straniere, per la precisione le sedi milanese di Intesa San Paolo, di Société Générale, del Crédit Agricole, dell'Advisor Lazard e quelle di due società di comunicazione, Brunswick e Image Building. Ci sono 4 indagati per insider trading e aggiotaggio, una vicenda che potrebbe anche aver inciso sul passaggio ai francesi dell'azienda di Collecchio. Una partita giocata dai francesi a carte scoperte, con informazioni confidate nei segreti di un unico tetto coniugale. Dietro la battaglia finanziaria per la Parmalat, la Procura di Milano ipotizza anche la circolazione illecita di informazioni tra gli opposti schieramenti e contesta il reato di insider trading a Fabio Canè, alto funzionario di Intesa San Paolo. Per il PM, Eugenio Fusco avrebbe spifferato alla moglie, capo dell'investment banking di Société Générale, che è advisor di Lactalis, informazioni sulla sua cordata, permettendo così ai concorrenti, scrive il PM, di offrire un prezzo di poco superiore a quello di Intesa e riuscire a comprare il 15% di Parmalat dai fondi McKinsey, Skagen e Zenith. Questo avrebbe influito in modo determinante, nota Fusco, nel decreto di perquisizione sulla conclusione dell'operazione. Fu proprio infatti quel 15% a consentire ai francesi di arrivare al 29% del gruppo di Collecchio e quindi dirottare per il momento al di fuori delle Alpi la sfida finanziaria sul latte. Su quella notte del 22 marzo e su quell'operazione da 744 milioni si concentra ora l'attenzione della Procura, che vuole vederci chiaro nel cambiamento di linea dei fondi rispetto a 3 mesi prima e contesta l'aggiotaggio anche a Massimo Rossi, candidato come possibile AD di Parmalat, e Carlo Salvatori, presidente di Lazar Italia. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo in Grecia, dove migliaia di persone sono scese in piazza nello sciopero generale proclamato contro il piano di austerità imposto da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale per cercare di superare la grave crisi nel paese. Disordini sono scoppiati ad Atene tra la polizia in tenuta antisommossa e i manifestanti. Al piano greco è arrivato il sostegno anche da parte della Germania. Vittorio Darold, del Sole 24 Ore. La situazione è di tipo sociale molto acuta. Questo, ricordiamo, è il decimo sciopero generale dalla firma del memorandum che è avvenuto esattamente un anno fa. In quell'epoca, appunto, la UE con il Fondo Monetario e la BCE, la Troica, la cosiddetta Troica, decisero di dare 110 miliardi in 3 anni per sostenere il fabbisogno della Grecia, che non era più in grado, appunto, di restituire i soldi a chi li aveva prestati. Questa era la situazione. Quindi la Grecia era un anno fa esattamente in default. Poi l'Unione Europea, ricordiamolo però con molta difficoltà, riuscì a dare questo aiuto, di dare decise appunto anche delle nuove strutture, dei fondi che non esistevano. Qualcuno a quell'epoca addirittura non voleva nemmeno che si fosse l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale per un orgoglio europeo di quel tipo. Alla fine si decise di dare un aiuto di 2/3 sull'Europa, con diretti anche prestiti dei paesi che dovevano appunto aiutare, e 1/3 con il Fondo Monetario. Tutto questo però non è bastato, non basta perché? Perché nel 2012 mancano appunto all'appello 30 di miliardi per restituire appunto ancora i prestiti. Sappiamo che i prestiti sono all'80% tutti in mano a stranieri, quindi non a greci. Quindi questa è la vera situazione. Nel caso in cui ci fosse un default, sarebbe un default che andrebbe a colpire banche francesi in prima fila, banche tedesche e fortunatamente molto poco le banche italiane, ma questo creerebbe il cosiddetto effetto domino, e quindi questo è il vero problema per cui i tedeschi probabilmente hanno fatto questo ragionevole cambiamento di programma. E di salari e tasse parla un'indagine OCSE. Italia rimane in fondo alla classifica europea. Salari tra i più bassi e tartassati dal fisco. Nella classifica degli stipendi medi l'Italia resta infatti il fanalino di coda dell'Europa, anche se magra consolazione guadagna una posizione sulla Grecia passando dal 23esimo posto al 22esimo. La busta paga di un single senza figli a carico in Italia è stata nel 2010 di $25.000. Un collega spagnolo nelle stesse condizioni ne guadagna più di 27.000, oltre 31.000 un tedesco, quasi 40.000 un inglese. Basse retribuzioni e fisco pesante, cresce infatti il divario tra lordo e netto e l'Italia sale dal 6° al 5° posto per peso fiscale sugli stipendi. Il cosiddetto cuneo fiscale, che calcola la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto effettivamente finisce in tasca al lavoratore, secondo l'OCSE è al 46,9% nel 2010, mentre era al 46,5% nel 2009, più 0,4 punti percentuali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le borse europee hanno chiuso contrastate ieri. Francoforte ha registrato un meno 0,09%, Parigi un più 0,14% e Londra un meno 0,71%. Chiusura leggermente positiva per Piazza Affari. Chiusura contrastata per le borse europee, che sul finale hanno limitato i guadagni di giornata, intimorite dall'andamento debole di Wall Street. Il FTSE MIB comunque ha guadagnato lo 0,21%. Sono salite del 2,58% le mediobanca, dopo i conti dei primi 9 mesi chiusi con un utile cresciuto del 18%. Per contro, le altre azioni bancarie hanno registrato un andamento contrastato. In Europa si sono risvegliate le azioni del lusso, sospinte in alto dai dati sulle vendite e rialzo della francese Hermès. Peraltro anche in Italia, Bulgari ha annunciato di aver chiuso i primi 3 mesi dell'anno con un ritorno all'utile. Così TOZ, più 0,96%, si è spinta su nuovi massimi, nell'attesa della propria trimestrale. Sono inoltre andate bene le Luxottica, più 1,59%. Tra le società a minore capitalizzazione sono volate del 7,9% le AEF nel giorno della trimestrale in evidente miglioramento. Parmalat infine ha chiuso invariata, ma sopra il prezzo dell'OPA annunciata dall'Actalis a 2,6 euro. Il mercato scommette su nuovi colpi di scena. Del resto, come un fulmine a ciel sereno, è stato reso noto che sono indagati per insider trading e aggiottaggio diversi banchieri che hanno trattato la compravendita delle quote nell'azienda Lattiero Casearia. Tra questi spicca il nome del numero 1 di Lazar Italia, Carlo Salvatori. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il fronte immigrazione, uomini gettati in mare dallo scafista per placare le onde, è l'agghiacciante racconto fatto agli operatori di Save the Children da alcuni migranti arrivati a Lampedusa. Sull'episodio sono in corso delle indagini da parte delle forze di polizia. Raffaella Milano, responsabile programmi Italia Europa dell'organizzazione umanitaria, al microfono di Romolo Napolitano. Sul lato della plausibilità possiamo dire che si tratta di situazioni plausibili. Questo è diverso da dire cosa è successo nel merito, perché, ripeto, sta alla polizia, alla magistratura, alle nostre forze dell'ordine indagare, raccogliere tutti gli elementi e fare in modo che, se ci sono dei responsabili di queste situazioni, vengano assolutamente assicurati alla giustizia. Può esserci una spiegazione razionale a questo? Cioè, ci può essere un motivo statico della barca? Faccio un esempio. Sappiamo che sono viaggi spesso assolutamente sovraffollati, che quindi poi le condizioni del mare, no, sono barche che non sono attrezzate per avere un numero di persone a bordo così alto, ma tendere ad escludere che ci sia una scelta razionale di questo tipo. Ecco. È stato ipotizzato che li abbiano lanciati in mare per placare le onde, una sorta di rito irrazionale, insomma. Sì, assolutamente, certo. Questo è assolutamente irrazionale, ma ripeto, purtroppo molte cose che accadono in queste situazioni estreme sono assolutamente irrazionali. Due scosse sismiche sono state registrate ieri pomeriggio in Murcia, nel sud della Spagna, con un'intensità di 4,5 e 5,3 gradi. Molta gente è scesa in strada. Danni materiali sono stati registrati a York, dove fra l'altro è stata danneggiata la facciata di un'antica chiesa. L'antitrust ha sanzionato le compagnie aeree Alitalia, Blue Express, Germanwings e Air Italy in relazione ai biglietti aerei online. L'autorità per la concorrenza ha considerato ingannevole non includere nel prezzo del biglietto pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito. Un costo aggiuntivo, spiega l'antitrust, spesso rilevante, applicato solo al termine del processo di prenotazione. 285.000 euro l'importo complessivo delle multe. Ora l'autorità sta analizzando i comportamenti di altre tre compagnie aeree. Lo stress da lavoro condiziona gli italiani, in particolare le lavoratrici madri. E questo è un fatto risaputo che l'inchiesta Assidais da Bocconi conferma. L'elemento nuovo è che è soprattutto la mancanza di obiettivi sicuri e l'incertezza della definizione del ruolo che crea stress alla donna. In altre parole, l'essere multitasking a casa si riflette anche in ufficio. E soprattutto in Italia manca la cultura nel considerare lo stress causa di patologie. Di conseguenza mancano anche le statistiche. Lorena Capoccia, presidente Assidai. Non è un fenomeno legato a discorsi che possono essere di un momento di nervosismo per una situazione contingente. Lo stress è veramente un fenomeno importante che dura nel tempo e, se non viene in un qualche modo rimosso, poi dà questi effetti negativi. Quindi ignorarlo è un'illusione. Non avendo a disposizione dei dati relativi al legame che può esserci tra lo stress, la causa quindi, e il risultato, la patologia, purtroppo non si riesce a correlare esattamente i due fenomeni. L'altro dato che manca, per esempio, è il dato delle giornate lavorative perse, che invece è più disponibile a livello europeo e in generale mondiale, mi riferisco in particolar modo agli Stati Uniti. In Italia manca la cultura dello stress, cioè lo stress viene proprio sottovalutato e stimato come un fenomeno, oserei quasi dire, da casalinga isterica. In chiusura lo sport, con il ciclismo del Giro d'Italia. Il trentenne olandese Peter Wenning, vincitore ieri della tappa del Giro da Piombino a Orvieto, ha conquistato anche la maglia rosa di leader della classifica generale. Una tappa, quella di ieri, caratterizzata anche dalla caduta rovinosa del ciclista, anche lui olandese, Slachter. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.